Con Ilenia D'Avenia, coautrice e attrice dello spettacolo Indra, in scena allo Spazio Diamante a Roma dal 7 al 9 dicembre. Ilenia, ben trovata. Ce Ciao, ciao, buongiorno. lo presenti lo spettacolo? Ah sì, lo spettacolo è difficile da presentare, io non so mai da dove iniziare. Sicuramente è uno spettacolo molto complesso, trae ispirazioni da racconti siciliani di Danilo Dolci, che è stato un attivista, un sociologo negli anni 50 in tutta Italia e soprattutto in Sicilia, pur essendo un uomo del nord, proveniente dal nord. E si è battuto tanto per i diritti dell'essere umano. Noi allora siamo partiti appunto da questi racconti siciliani, che sono racconti di persone realmente esistite, che lui raccoglie appunto in un libro con una scrittura insomma molto semplice, come effettivamente queste persone del popolo parlavano allora in Sicilia. Abbiamo fatto nella scrittura un percorso di, insomma, abbiamo tolto tutte le connotazioni possibili, lasciando poi soltanto il dialetto e quelle che effettivamente sono le problematiche dell'essere umano, quindi togliendo tutte le connotazioni possibili della mafia, della politica, e cercando di andare veramente in profondità nelle viscere appunto dell'essere umano e dei comportamenti dell'essere umano, cercando poi di capire che cosa l'essere umano può fare per cambiare effettivamente le proprie sorti e le sorti della comunità, delle persone con cui vive. E niente, poi dopo abbiamo veramente cercato di trattare il tema delle interconnessioni, infatti lo spettacolo poi ha preso il nome di Indra. La rete di Indra è una metafora antichissima buddista che spiega che l'universo è come una rete che si espande in infinite direzioni, e all'incrocio di tutti i fili di questa rete c'è una gemma, sono delle gemme che vivono di luce propria e riflettono la luce altrui. E quindi per noi, per appunto questa metafora, le gemme sono come gli esseri umani, quindi ognuno di noi vive di luce propria, ma è interconnesso alla luce degli altri, riflette la luce altrui e splende della luce altrui. Quindi noi abbiamo cercato di prendere cinque storie, cinque personaggi e cercare di capire quale fosse il filo conduttore che legava la loro esistenza, in che modo loro poi erano connessi in maniera interdipendente. E così è nata la scrittura di Indra. Lo spettacolo appunto tratta moltissimi, moltissimi temi, anche abbastanza forti, però con un senso di leggerezza e di bellezza della vita, che in qualche modo fa andare oltre i nostri attaccamenti terreni, che prevede un superamento e una grazia nella disperazione. Questo è un po' in Sì. sintesi la nostra operazione con lo spettacolo. Com'era partito il progetto? Ah, il progetto è partito appunto leggendo racconti siciliani di Danilo Dolci. Quello che più di tutto in assoluto ha appassionato me, Francesco Governa, che ha scritto il testo insieme a me, era l'umiltà, la bellezza e la semplicità che c'era nelle parole in questi racconti di questi esseri umani. E il fatto che loro, appunto, genuini come erano, non riuscivano a capire che cosa fosse questo sistema che li schiacciava, che al tempo, negli anni 50, cominciava ad essere la mafia, ma in generale il sistema, insomma, che sta il potere che sta sopra di noi in ogni circostanza. Loro non riuscivano a capire che cosa fosse, quindi non riuscivano neanche a combatterlo. E in questo senso si trovavano in situazioni di povertà, di fame, di privazione dei sentimenti, di morte, per cui non sapevano che cosa fosse, che cos'era che li privava della loro vita, sostanzialmente della loro libertà, della possibilità di stare in questa vita dignitosamente, no? E quindi combattevano contro queste cose senza poi sapere cosa fossero realmente. Perciò noi cerchiamo di fare un'operazione che tenti di fare andare l'essere umano nella direzione dell'unione, perché in questi casi soltanto l'unione della comunità può realmente ribaltare le cose. E quando invece non succede, quando invece per sopravvivere si va contro l'altro, la fine non è quella che potrebbe essere, non è bella come quella che potrebbe essere. Ah, uno spettacolo che ha vinto il Festival in Divenire, che percorso farà poi? Già, insomma, è stato attenzionato da un po' di direttori artistici, noi cercheremo di farlo girare il più possibile. Quello che sicuramente aiuta lo spettacolo nel tentativo di girare è il fatto che poi tratti appunto temi universali, nonostante appunto il linguaggio sia siciliano. Quindi sicuramente quest'anno lo vedremo a Roma anche nella prossima stagione, ad aprile, e poi il prossimo anno partirà una vera e propria tournée. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, intanto noi non abbiamo in questo momento ancora un sito, però sicuramente seguendo le nostre pagine, le nostre social, i nostri profili, sicuramente potrete essere più aggiornati. Bene, e allora ricordiamo lo spettacolo Indra a Roma, a Spazio Diamante, dal 7 al 9 dicembre. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice e attrice Ilenia Davenia. Un abbraccio, un Grazie. in bocca al lupo e ci si vede a teatro. Vive il lupo e merda, merda, merda. Ciao, grazie. Ciao.